Lazio. Ehia, ciao Antone, ero qua un attimo fa, stavo controllando le stazionarie, perché quando era stamattina o ieri notte, adesso non mi ricordo, quando c'era la pioggia abbattente, insomma, mi segnava un po' di stazionarie. Dallo smitter, te ne accorgevi perché saliva poco. Anziché essere intorno a 8-9 di smitter, saliva 5-6, quella è l'avvisaglia. Attaccato il rosmetro, però erano non molto, erano tipo 1,2, 1,3, capito? Oscillavano un po' perché l'antenna era però grondante d'acqua, capito? Adesso vedo che non si muove, uno sta uno qua, e quindi era solo perché l'antenna era proprio bagnata grondante d'acqua. E sai che toccando il PL sentivo come un leggero pizzico tipo scossa, come mai? Perché quando piove così forte ci sono elettrostatiche. Quindi non c'entra che sia cortocircuitata, magari non fa la scintilla tra il polo caldo e il polo freddo, però anche la calza, toccando la parte esterna del PL, sentivo appena appena di pizzicore. Mi hai presente quando c'è dispersione anche in qualche elettrodomestico? Ma dopo non c'è dispersione sul palmetto? Ma dispersione di che tipo? Da qualche cosa elettrica? E cosa c'è di elettrico sul tetto? Oddio, boh. La centralizzata può essere, lì arriva tensione, corrente, non so a quale voltaggio nemmeno. Non so nemmeno dove sia la centralizzata, se è sul gabbiotto, se sul parapetto, non ho mai indagato. Comunque, magari è stata pella l'umidità nel muro e hai capito? E compulsate dall'accensione e spegnimento delle luci delle scale, ma a meno che non ci siano problemi di centralina, come ti senti leggermente formicolioni, quello sto parlando io. Più che formicolio era come un pizzico, leggero. Ma me l'ha fatto che era bagnata l'antenna, ho detto magari qualcosa attinente. Comunque sì, il gabbiotto è da rifare perché è un po' frazzigo. Sicuramente è permeabile, anche sopra va rifatta l'impermeabilità, infatti dobbiamo fare anche quel lavoro, solo che ormai con le piogge che ci sono, con le feste in arrivo, vedrai che si farà dopo la Befana, a gennaio se ne riparla adesso. Mi pare che te lo facciano poi, del resto, devo metterci le catrame, non è che ci vuoi nient'altro, già l'hai visto. Quei fogli di catrame ormai sono secchi, hai capito? Quindi penetra l'acqua all'interno. Devo togliere, cioè devono mettere di nuovo il catrame sciolto, dopodiché ci mettono il catrame incatramato, lo scaldano e rifanno il catrame, ci mettono il catrame incatramato, quello un granulare, che di solito si usa, oppure quello liscio. Vabbè, io non mi intendo molto. Quindi lo smitter, il rosmetro lo posso togliere, vedo che non si muove, dai. Sì, quello già va bene, non c'è problema, e ci batterebbe, scendo benissimo. L'osmetro, come diceva Paoletto, non sapeva dire il ros, ma diceva l'osmetro, l'apostrofo osmetro. lo so, era così. Però, almeno, cazzo, lui c'ha al minimo 90 anni adesso. A chi? Paolescu? Paoletto pensa che ne aveva, mi pare, ne doveva compiere 29 o 30 nell'84, l'aveva detto, o 29 o 30 nell'84, fai che fossero 30, fate il conto. Ce li ha buoni 70 e passati, ce li ha, questo è poco ma sicuro, e se li porta bene, chiaro. Eh sì, 30 anni, 40 anni, sono, quindi 70 anni, poi non so se siano compiuti o non compiuti, però è volato il tempo, è volato. Nevolato sì. Stavo cercando di mettermi a posto una che mi aveva dato, cazzo, ma non c'è niente da fare. Non riceve né trasmette. Non venuto di qua. Vabbè, pazienza, se la può prendere in cura. Tanto me l'hanno regalato, lo uso per pizzi, va fa ancora. Un Midland, di quelli con LED, LED rosso e poi l'ultimo è giallo. Mamma mia, lunga la domenica, poi con questo tempo del Menga non puoi andare da nessuna parte, a meno che non vai a tapparti nei centri commerciali, vabbè, cosa che tanto vale stare a casa. Basta con questo PMR però, mamma mia, aspetta che lo silenzio, deve essere quella pista del ghiaccio in Piazza Italia comunque. Ho sentito roba ieri notte, vabbè, non io, mi si è fatto il portatile del mio nipote, via, mi sentiva parlare sul canale 6 ieri sera, erano più delle 8, e mi sembrava che c'era saggezza, sul canale, non come canale 6, canale 1 in pratica, che arrivavano bene con la tele in gomma. Vabbè, io mi stavo guardando la televisione, non ci ho fatto più caso. Mi fiutati. Ehi, ehi, Fabien, non so che dirti, che cosa raccontarti, che cosa vuoi dire? Ma Antonio, ho capito bene, Graziano se n'è andato. L'altra volta ne stavate parlando al 23. Graziano se n'è andato. E sono due. Vabbè, lui non entrava, no, e sono tre, due non entravano più, uno vabbè, modulava con noi, poi tassista non modulava più da decenni, Graziano non modulava da anni, e sono tre, vabbè, tu dici se non entrano non vale, però erano cibida. Il prossimo potresti essere tu. toccati le palle. Ah, guarda, se tocca a me già sta tranquillo che già non pago niente. Se dovessero venire a chiedermi i soldi della mondetta, mi dico guardi, sono già nella mondetta, quindi venite a ritirarvi lì. No, scherzo, naturalmente Antonio, lo sai, ci mancherebbe. Tanto si scherza su tutto oggi, scherziamo anche sulla morte. Potrei essere io il prossimo, chi lo sa. Magari stanotte vado a dormire e domani mi sveglio morto. Come dice Aldo Giovane Giacomo, capito? Domani mi sveglio, mi alzo e mi sveglio già morto. Esagerato. Cioè sei ancora giovane, non ti preoccupare. Ma sei stato a 60 anni. Cosa c'è? Se peggio una patallata questo. C'è Mario, non dovete preoccupare. Poco fa ho buttato la differenziata e ho visto l'antenna oscillare un pochino, c'era un bel maestrale, addirittura avevano detto vento di burrasca, praticamente qua come arriva un normale maestrale annunciano sempre l'allerta rossa in Sardegna, sempre l'allerta rossa e poi magari un normale temporale, un normale vento di maestrale, niente di che. Sono sceso dai Rospini, sono sceso, quando sono rientrato, finché scendevi in via Calaprice non c'era problema. Poi quando sono entrato mi sono preso il vento in pieno del canalone che parte da Carbonati e va verso le villette dove abitava Pier Giacomo. Cazzo, mi ha tirato indietro, mi ha tirato. Ehi, in luoghi aperti già. Guarda. No, guarda, guardo io, poi ti racconto. Allora, 1 e 2. 1 e 3, guarda, lo sto facendo di nuovo. Questa è umidità entrata nel barilotto, perché io l'avevo stagnato, però la stagnatura non è perfetta, cioè non è eterna. Almeno spero sia quello, vedi? 1,2 sono modulo, 1,25 da. E quindi da, devo ricontrollare quella, quel barilotto maledetto. Quando il tempo si stabilizzerà però, vedi? Che palle. Vabbè, niente di grave comunque. Vabbè, siamo d'inverno, mi devi contare che lo quando scende l'acqua dallo stiro tocca la massa e quindi conduce, capito? A un certo punto. E meno male che non piove acqua salata. E quella conduce di più. E non si abbia il fuoco. Non ho visto nel coso cosa usano, acqua e sale. Per poter illuminare le lampadine, cazzo. Questo Marco lo sapevamo noi, visto? E invece quando scendevano giù nel succici, capito? Dove ci sono lì, estraevano il materiale, usavano quelle lampade lì, usavano acqua e sale, cazzo. La voglia sale in abbondanza lì a Cagliari. Ehi, ehi, sto guardando lo Smitter, il Rosmetro, anche senza parlare oscilla leggermente tra 1,2 e 1,25, se modulo, se fischio, più o meno, là. E vabbè, comunque ricordati che l'autoagglomerante sarà buono, quello che vuoi, però dopo 10 anni di sole, di freddo, di vento, di pioggia, immagina quanto è esposta l'antenna, no? Quindi si becca tutto il sole di 10 anni, tutto il freddo, la brina, prima o poi cede anche l'autoagglomerante, cede, capito? La tua vocalità, vorrei dire, no, vorrei altro. Beh, la tua vocalità è quello che prima o poi l'umidità entra. Sì, infatti, però, caspita, l'antenna si è ripagata già abbondantemente. Abboggiami, guarda, 1,4. Sta salendo di più anche e oscilla continuamente, non so se sia col vento oppure con i watt che ci passano dentro, con la bobina non so in che condizioni sia, perché quelle antenne lì hanno quel tubicino di plastica che copre la bobina, ma non è eterno anche quello, anche quegli O-ring, no, quegli O-ring ce n'è uno sopra e uno sotto, non sono eterni, quelli basta che si spacchino e l'acqua però male entra. Ho capito. Anch'io ogni tanto arrivano, a tratti arrivano qua. Svegliarla, aspetta che lo silenzio. Ho detto arrivano a tratti qua. Ma ti hanno sentito quando hai parlato? Arriva a fondo scala qua. Stare. sento un rumore strano, sicuramente sta piovendo di nuovo. Mi risento. Però non parla, non premo la porta, stanno facendo un casino nero tra portante e cicalini vari, lo usano a cacchio di cane, capito? Il PMR. Ma qual è il canale dove ci sono i fusi, capito? Dove c'è il saggetta, sì, sul canale 6, li conosco tutti, mi dico. Mi sono dimenticato di lanciare la direttiva in trasmissione, in pratica, e portate la ricezione. Perché c'è questo cinese che mi ha bruciato di quel parassito faloso. In trasmissione esce, è solo una ricezione che non fa, capito? Cioè in pratica non c'ho audio sia nelle cuffie sia nell'altoparlante, è un tassetto piccolino. Tutto questo esce forte. Lui, vedi come piove e si sta alzando ulteriormente l'SVR. Vabbè, adesso il rosmetro finché piove lo tengo, quando il tempo poi si stabilizza lo levo. Ma era per sapere a che livello salivano. Adesso che sta piovendo, vedi, arriva a 1,4, 1,5 massimo. Vedi, varia in continuazione. Vedi, sale, scende, sale, scende. Sta piovendo comunque di nuovo. È brutta, brutta giornata. Fredda, umida. Io non so cosa. Ho un po' di mangiare. Maria, sta arrivando quel crepitio forte, una specie di frignare a Santiagotto quasi. E come metti il noise blank, la NL se ne va, o meglio l'attenua molto, lo silenzia un po' e scende anche il segnale. E poi Antonio, avevi accantonato l'idea, vabbè, del trasmettitore FM, ci sono sempre in vendita. Stava piacendo anche a me l'idea, da tenere da parte per usi futuri, poi c'è di tutti i prezzi, di tutti i vantaggi, c'è chi te lo dà con l'antenna, con la Grand Plane, anche tarabile, cioè in base alla sezione di banda che vuoi usare, ti danno le varie bobine o varia la lunghezza dell'antenna, non mi ricordo. €100 costa, 100 euro e qualche cosa, c'è anche la 200 euro, ce n'è. Bronx Craft, c'è la frequenzimetro, lo puoi impostare, eccetera, eccetera, TNL, li metti l'ingresso audio, e c'è il mixer, di quella due canali, in modo da poter fargli l'ingresso del microfono e l'ingresso delle, come ti posso dire, come stanno usando il poter registrare l'audio, stanno usando i videoregistratori, quelli modello vecchio, fanno 24 ore, fanno di continuo. Sì. No, il modello 15 watt era anche meno costoso, mi pare una sessantina di euro, 60 o 60 spiccioli, poi dipende se lo prendi con l'antenna o no. Usi futuri. Poi stavo pensando, uno come le controlla le stazionarie, se non che questo DAI va, non è HF questo rosmetro, fa da 1,8 ai 200, io ricordavo fino ai 50, invece c'è scritto 1,8 200 MHz, quindi andrebbe bene anche su quella banda lì per tarare l'antenna, buono. Scusa, ricordo, ma l'avevo 500 mi tocca, mi ha calato le trasmettitore 3428. Andava benissimo, andata. Figurati. Era di lusso, era. Solo mai che così non ce n'è più in vendita. Ma vendono quelli cinesi e bisogna andare su Amazon oppure su Temu, che io non mi fido più a fare arrivare roba come prima, a pagare 129 euro, cazzo, mi arriva un paio di calze, cazzo. Eia. Bella bolotta c'è di vento, altro che, queste sono le tende che sbattono, le dovremmo togliere ormai che non è più estate. Vabbè, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, la canzone di Giovanotti. Già non bella, piove, la voglia. Chi fa da qua? Dì a me, sto facendo la grandine piccola, insieme all'acqua, quindi si sta abbassando la temperatura. Eia, poi il primo, perché c'è un rientro nel ricevitore, il primo tuono che senti lo stacco l'antenna e chiudo. Già rido se viene la grandine tipo palline da golf che bugna tutte le macchine, capito? Chi fa tutte le fosse. No, la grandine è piccola, non è grande, non è grossa, la verità. Mi lo senti. Purtroppo lo senti, è la grande. Quindi sta diminuendo la temperatura. Anzi, si sta per la pena più ingrossato. Quindi se fa così, se continua a stare così, la faccio che faccio una sottata di neve. Domani notte, non lo so domani. Dato che l'ha segnata a nuvolo, tempio in Corsica è una cosa allucinante, nevica sempre, cazzo. Oh, avrebbe messo neve però nei soliti posti, quelli in alto. A Sassari non nevica più, ma parlo di una neve degna, per esempio, guarda, non dico di avere la nevicata del 56, quella era spettacolare, ma almeno la nevicata dell'85, ecco, mi accontenterei anche di una cosa del genere. Così non c'ho bisogno di roco. E tolgo le ruote, ci metto un pezzo di plastica sotto e così mi faccio la discesa e mi cado felice sino laggiù, in mezzo alla neve. Poi a salirmi che mi faccio portare dal tram. Ma se c'è nel caso di neve, ma il tram riesce a salire in caso di neve? O non circola nemmeno? Quando se la neve è molta, col cacchio che circola il tram, ci vuole il carro armato, i cingoli ci vogliono. Io mi faccio portare, mi aggancio, come si chiama, di dietro, aggancio di dietro, mi aggancio, mi faccio portare fino a su, mi faccio tutta la fermata, piano piano, con una corda. Dico, guardi che io sono arrivato, sono in via Battabasso, esci qua, e va bene. Sarebbe bello vedere la neve davvero, comunque, almeno per farci le solite foto di Prassi. E vabbè, e poco fa sono passate due tipe in strada che ci avevano questo giubbottone, cioè col cappuccio grande, col pelliciotto intorno al viso, tipo Eschimo, l'Eschimo. E ho pensato all'anima, manco fossimo al Polo Nord. E io ero con una normale camicia felpata e l'ho smanicato, il giubbottino smanicato e basta. Io sono uscito col giubbotto e la cuffietta e basta. Dopodiché sono venuto a casa, ho tirato un po' di latte, ho preso, così mi faccio latte con i biscotti stanotte. Latte bollente con i biscotti, così mi scaldo. Con il freddo mi tiro l'ombra. Ho già preso un po' di latte e molta birra. La birra ho tirato 4. Me la sto bevendo piano piano, me la sto bevendo. Ho preso solo 4, l'ho preso. Di che l'abbia preso? E lui per pigliare 50 latte e poi domani mattina te ne alzi tutto messo male. Capito? Certo, certo. Tra poco mi stendo un po' di roba, che la lavatrice ha finito. È la routine solita qua, dai. Va bene. Ma oggi abbiamo fatto riso in bianco, ma più in bianco non si poteva, Ho detto, non voglio condirlo troppo, ma all'anima mi è venuta una cosa proprio da dieta ferrea. Ho tentato di grattugiare anche un po' di limone, scorzetta di limone con la grattugetta, però con la grattugetta c'ha le lame che non tagliano niente, non tagliano niente, non riuscivo neanche a grattugiare un po' di scorza di limone, quella ce la butto. Serve una che sia proprio affilata, mi, che ci passi il dito e aggiungetelo, taglia. Che cazzo, non mi vuoi dire propagazione in FM, cioè, non vuoi dire che sei all'Ucraina, no, cazzo. Sì, di tutti i tipi, guarda, banda laterale sui canali 30 e spiccioli, poi ci sono quegli animali degli americani sul 6 e sull'11 con segnaloni a bomba, e un po' di roba c'è in aria. Se ci compriamo i bitcoin, capito, 250 euro di bitcoin, aspettiamo un mese e mezzo, ne ritiriamo 15.000, poi prendiamo e ce le facciamo cambiare in euro. Conta che noi siamo sempre nel massimo del picco solare, il ciclo undecennale solare, siamo nella zona del picco massimo tutto questo periodo, no? Questa propagazione buona che c'è quest'anno, l'altro anno, poi andrà a calare un po', e fra 5 anni e mezzo saremo al minimo solare. E quest'anno ne ha fatte di tempeste geomagnetiche, anche forti. Naturalmente poi agli effetti pratici per noi non ha cambiato niente, non è che ci sono stati mancamenti di corrente elettrica, ma dice che negli Stati Uniti tipo nel 1800 e tanti, non so se avesse bruciato i cavi del telegrafo o interrotto comunque la linea, capito? L'onda elettromagnetica aveva interferito, ho letto qualcosa del genere. Immagina che tempesta geomagnetica era terribile quella, non credo che siamo arrivati a quei livelli. No, a quei livelli no, grazie a Dio, e se no avete avuto tutti i satelliti, tutti a terra, io lo sai anche tu. Erano crepati tutti quelli di Starlink, adesso ho visto, se vuoi avere Starlink, 40 euro al mese. Hai capito? E c'hai internet come vuoi, hai capito? Non c'è bisogno neanche di avere più cose, ma ci vuole un'antenna, mi sembra che larga 50-60 centimetri. Ah, quello di quei satelliti tutti in fila, luminosi, quelli non ho mai avuto ancora l'occasione di vederli in aria. Mentre la ISS una notte l'avevo guardata col binocolo, ma velocissima, un missile sembrava, cioè non riuscivi a seguirla col binocolo, e poi vedevi poco, praticamente vedevi, sì, questa cosa luminosa, però non capivi bene cos'era, non vedevi la forma. E c'è un punto, a un certo punto ha raggiunto una, probabilmente era sulla verticale, tra virgolette, era il punto più vicino a dove ero io, e hai visto che la luminosità è aumentata tantissimo, capito? Prima era più blanda, poi è diventata sempre più luminosa, però è veloce da seguire, e poi ci vorrebbe telescopio, qualcosa a inseguimento, che la tiene puntata e la segue passo passo, col binocolo non fai nulla, non riesci manco a tenerlo fermo a mano libera, capito? Spera che non te ne scenda qualche pezzo nei prossimi 2 anni, che non la vogliono buttare giù, quindi che cada a coso, cara, lì a, ti posso dire, a Plaza Mora, così andiamo a recuperare un po' di pizzi e ce li vendiamo. Andiamo, la, non credo nemmeno che sia permesso ottenerli, sicuramente, anche se dovessero cadere in una zona alta densità di popolazione, andrebbero subito i tecnici a, a raccogliere roba. Poi il perché non ho capito, vabbè. Sì, avevo sentito che la volevano smantellare, fare precipitare, no? La caduta controllata. Di solito cade quella roba nell'oceano indiano o giù di lì. Sì, vabbè, un piano pacifico, quello che la vogliono buttare giù. Deve andare, e lo suma, e lo, ma vabbè, già mi hai capito, trainarla e portarcela giù. Quindi immaginati tu, indicato la, la porta, ma non penso che la porti molto, molto lontano, perché cazzo, quando comincia a entrare nell'orbita terrestre si è fatto 30 pizzi, quindi hai trovato un pezzo qua, un pezzo là, un pezzo giù, un pezzo su, tanto già, mi sembra che è lunga 100 e passa 109 metri. Adesso non mi ricordo quant'era, è tutta modulare, non fatta a moduli. Solo che se smantellano quella poi non hanno altra stazione che la sostituisce, no? Per fare quegli esperimenti di fisica e tutte quelle menate che fanno là, no? Siamo la base sulla Luna, quindi andiamo il 27, chiamiamo base lunare Alfa, rispondi e lui dice cosa cazzo vuoi? John Koenig. Allora, dammi il controllo di segnale, quanto arrivo sulla Luna, 9:20. Te lo immagini? Beh, in teoria sì, come fanno i radioattori quel moon bouncing, no? Vabbè, basta un'antenna adatta alla frequenza, vabbè, già hai capito, l'attrezzatura adatta, sì, a voglia. Ma dice che la Voyager aveva ricominciato a, a trasmettere i dati dopo che si era perso il segnale per un po' di tempo. La sonda Voyager, non so dove sia arrivata nemmeno, quanti milioni di chilometri o milioni di, non mi ricordo, dovrei guardare su internet. Cioè, è per dire che la Luna è vicina in confronto, è un tiro di valla, capito? E quindi è relativamente facile, è facile comunicare, no? Perché hai mezzi adatti, no? La NASA, quello che è. Ci vuole l'antenna adatta, ci vuole, già ci arriviamo, non ti preoccupare. Ho visto quella casa di San Link, che è piatta, quindi non è, è come una parabola. Quindi a un certo punto useremo antenne così piatte, piazzate sopra al tetto e parleremo, capito? Basta puntarla sulla Luna. Sì, sì, adesso fanno queste antenne piatte anche per i, per esempio per i wifi. Hai visto quelle antenne? Praticamente sono dei, piatte e quadrate. Piatte, piatte e quadrate. E vabbè, adesso io non so come siano fatte dentro. È un po' come un'antenna TV. Una volta erano un po' a spina di pesce, no? Come quelle log periodiche, come si chiamano, quelle con gli elementi dal più piccolo al più largo dietro, no? Che coprivano una frequenza più ampia. Adesso sono più piatte, no? Non hanno la spina di pesce. Non so come si chiami la, quel tipo di forma, già hai capito, l'antenne TV. Già ho capito quale dice. L'antenna di pesce ce l'ho io, ma quelle quadrate tipo euro che sono rettangolari, capito, come antenne, però hanno la, l'involucro esterno per appena bombato, basta, sono puntate, non so dove cazzo siano puntate, perché no, non ho capito quali ripetitori si forniscono. Ah boh, io niente saccio, mia ambulanza, sento pompieri. Adesso sì, la pioggia e il vento un po' di danno lo farà nei luoghi più sensibili, in quelle zone un po' pianeggianti che si allagano in fretta, oppure alberi caduti, rami caduti, quelle cose lì, cornicioni vecchi staccati, e non solo le cornicioni, certe volte anche nei palazzi che hanno l'intonaco vetusto si stacca anche l'intonaco e casca su chi è sotto, poi su macchine, persone. Io lo so, sta sarebbe che specialmente lo faceva quello, ogni tanto qualche pezzo te ne scende in testa, come è caduto in testa a me un tubo da 6 metri non di plastica, no, Ethernet, ma beccato di sbietto. E non mai sono andato con le gambe mie a tutto soccorso. Un cazzo che volevano... Che bisogno di cucire, mi ha detto. Oh, che bisogno, no, tenga la cuffietta. Adesso guardi che c'è il sangue che è coagulato, si sta saldando. Mi ha detto questo scemo. Ascolta, gli ha detto... o mi cucisce, se no, gli ho detto, sono cazzi suoi, gli ho detto, gli do 10 minuti di tempo, gli ho detto, mi cucisce sopra e anche sotto, gli ho detto, che non devo stare qua da 2 giorni, gli ho detto. Allora ha preso, ha cucito, poi mi ha fatto il foglio, dice deve stare 24 ore, mi ha detto, sveglio. Ha detto, se sono più di 48 ore sveglio qua, che cazzo mi stanno prendendo i coglioni, ho detto. Ah, vabbè, per vedere se c'erano danni cerebrali, eccetera. Poteva andare anche male, Antonello, non è che ti ha preso di sbieco. E ha chiesto qualche risarcimento, oppure, vabbè, che lì se sarebbe chiesto a tutti i poveri, quasi tutti, che risarcimento gli chiedi? Un rene si devono vendere. Io sono andato a pronto soccorso, ho preso il tubo immediatamente, il padrone di casa, e che l'ha buttato nella casa di fronte che era in corso. Cosa facevo? Saltavo nella casa di fronte, andavo a recuperare i pezzi e li portavo al, come si chiama, all'avvocato. Stava crollando quella casa, ve la vai? Sì, però, cioè tu te ne sei andato e sei andato allo pronto soccorso, ma c'è no. Devi telefonare, far chiamare qualcuno, le autorità e l'ambulanza, e fatti trovare a terra a vedere, se no la gente, molti se ne fregano, lasciano le case vetuste a crollare in testa alla gente, capito? Gira gira non dovevi muoverti da lì, far intervenire tutti, le autorità, quello che era, e se ne inchiappettavano manco per, capito, per l'incuria della palazzina o quello che è, insomma. Ma a me mi interessava andare a pronto soccorso perché stavo picciando sangue, e a me mi interessava arrivare sano, cioè sano nel senso che non disaguarmi, poi già lo sai, l'ambulanza arriva dopo tanto tempo, i vigili urbani altrettanto fanno dei rilievi e cominciano a chiederti dove viene caduto il pezzo, eccetera eccetera. E cosa avevo fatto? Il verbale a che cosa? Una casa pericolante, vai, non mi avevo manco pagato. L'importante è che mi sia andata bene, poi il resto non mi ha fatto niente. Faccio loro il cavo al carico, non è che non ce l'abbia. E poi devo fare la risonanza magnetica, capito? Adesso quando... appena... il prossimo mese... si va vivo a gennaio, i primi 100 euro me li gioco lì alla famiglia di risonanza magnetica, dopodiché si farà quello che si farà, capito? Mando tutto all'avvocato e voglio ciò che mi tocca. Ma hai detto stavi pisciando sangue, ma dove ti ha beccato? Alla testa di sopra e alla testa di sotto questo palo, questo tubo in internet? Alla testa di sopra l'ha beccato, non la testa di sotto, beccato la testa di sotto. Se mi avrebbe beccato la testa di sotto gli avrei fumato a succhiare il cazzo a padrone di casa. No, ma non ho capito, perché ha detto che stavo pisciando sangue? E cosa c'entra col colpo alla testa allora? Perché mi stavo facendo sangue, cazzo, ce l'ho da te, ci ho messo, io ho dovuto metterci la cuffia in là per poter bloccare il sangue, capito? Tutto lì. In quel momento non ci pensi, no, di andare a chiamare come si chiama. Mi ha accompagnato a me il padrone di casa, immediatamente mi ha accompagnato. E, con la macchina sua, hai capito? No, vabbè, ma allora nel senso figurato, pisciando sangue, ma in testa, dalla testa, no? In senso figurato, non da giù. Ehi, già ti volevo vedere, mi. Ti dovevano tagliare tutto lì. Oh. Non parlavo del senso della testa, non parlavo del senso del pizzetto. Lì è più, ma qui se no ti dicono, qua bisogna buttare, tutto bisogna buttare, tutto, facciamo liscio, liscio, mamma mia, quando penso che chi vuol cambiare sesso affronta quel tipo di operazione, mamma mia, ma come fanno ad avere il coraggio di fare una cosa del genere? Ma mi sento male a pensarci, solo che loro d'altronde dice che si sentono donne nel corpo di uomo e soffrono psicologicamente, però guarda che è una cosa, se ci vuole coraggio a subire un'operazione del genere, non è buccia di gioca, no? Non ti sta operando di appendicite, no? Ormai è diventato tutto un casino, diventato che è maschio diventa donna oppure diventa froscio, che è donna diventa lesbica oppure è tutto un casino, già l'hai visto, più soldi c'hanno più viziosi sono, devono rimanere poveri e queste cose non avrebbero avuto neanche in testa, già lo sai che quando sono ricchi sono stati tutti quanti presi per il culo, hai capito? Come succede specialmente in televisione. Si conoscono, si fidanzano, fanno una, due figli, poi dice vanno a cagare, quell'altro cazzo sposato, tutto a un tratto si piglia un maschio, cazzo, dopo che ha fatto due figli. Meno male che cazzo già è mezzo scemo quello, ma comunque c'è gente strana allo spettacolo, guarda che no, in testa non c'è, volevano tutti ricoverati in psichiatria, questo è poco ma sicuro. E poi con questa teoria gender, poi con la sigla LGBTQ, hanno aggiunto un'altra lettera, poi c'è il più, cioè ogni anno aggiungono una lettera, un colore, un coso, adesso c'è la tendenza, dice, ci sono quelli che si considerano maschio o femmina in base alla stagione, capito? Che ne so, in primavera sono femmina, in autunno sono maschio, ma qua ci vuole davvero un coso, un consulto psichiatrico. È bello che queste cose in certe scuole anche le stanno mettendo in testa ai bambini. Non so se è in America, Canada o cosa, ma forse anche in Italia, non lo so. Gli stanno mettendo in testa che uno può essere quello che vuole, maschio, femmina, mezzo e mezzo. Quello mi pare un po' più grave però, cioè finché lo fa un adulto, ma già mettere in testa cose strane ai bambini sembra una cosa, non so nemmeno come definirlo. A proposito, ti volevo dire, a proposito di questi cosi arcobaleno, l'hai vista la nuova Jaguar? Cosa sono riusciti a fare? Hanno fatto questa Jaguar, vabbè, con una forma già indegna di una Jaguar, e dietro sembra un condizionatore, sembra, il color rosa, rosa shocking, rosa metallizzato, cioè, e poi vai a vedere che tutti questi che ci lavorano dietro, il manager, il designer e cose, tutti gli hanno fatti vedere anche che vanno a queste manifestazioni gay pride, eccetera, tutti ricchioni, capito? E stanno affondando la Jaguar, l'hanno detto tutti, è una menata, proprio è il fondatore della Jaguar, probabilmente si starà rivoltando nella tomba. Una cosa mai vista, mai vista. Ormai sta cambiando tutto, sta cambiando, non c'è più niente di originale. Capito? Ma cambiano tutto. C'è la Tesla che sta facendo di tutto per accaparrarsi di tutto. Capito? Adesso che ha fatto i telefonini cellulari, le auto elettriche, dopo le auto elettriche ha fatto l'auto con le, a tipo di elicottero, l'auto con l'aereo, cioè che fa l'aereo. Quindi uno scemo, cazzo, hai capito? Nato da nulla, si sta facendo i miliardi. Tutto lì. Tra poco per noi farà come Amazon, farà quello. Si mette a vendere componenti. Al posto della Cina li vende lui. Li fa lui direttamente di lì. E li vende in tutto il mondo. La Cina se la prende in culo, cioè la Cina, il coso se la prende in culo. Giappone, cosa del genere. Capito? Poi lì hai visto, adesso c'è tutto un casino sta diventando. Sembra che ci sia un'epidemia, ci manca solo che facciano un colpo di stato qua in Italia, te lo dico io, e non ci mancherà molto. Le buttano giù la Meloni, cazzo, le buttano giù e il presidente Mattarella, e vedrai che si sarà, ci metteranno qualcuno, ci metteranno la Grillo, ci metteranno la posta. Oggi comando io, faccio quello che voglio io, ma Pippi non esistono più, c'è solo il Movimento 5 Stelle e siamo a posto. Diamo il diritto di cittadinanza a tutti, non c'è problema, dobbiamo, speriamo bene, i soldi dell'Ucraina che quel coglione ci ha preso per il culo, cazzo adesso, dopo tutti i soldi che ci ha fregato, ce l'ha messo in culo, cazzo, hai capito, vorrebbe in pratica fare la pace, cazzo regalare, cazzo come si chiama, a te lo immagino, un scemo. Mi sa che la pace non la vuole nessuno qua, non la vuole nessuno. L'ha sentita l'ultima follia, questa viene dal Canada. Adesso lasciamo stare la storia LGBT che vabbè, insomma si stanno infiltrando dappertutto. Nel mondo del cinema, delle auto, nelle scuole, quindi da questa follia lasciamo stare. Dicevo dal Canada, l'ultima follia, no, nel Canada. I cittadini potevano anche detenere armi, un po' come in Italia, no? Vabbè, non come in America, però aveva il diritto, potevi pigliare il porto d'armi. Adesso hanno, mi pare, penso fosse il presidente, no, che abbia preso una decisione del genere. Il presidente canadese ha detto di punto in bianco, allora da oggi le armi sono tutte legali, ce le restituite, cioè non che te le pagano, te le valutano, tu che sei che le hai pagate le devi consegnare allo Stato perché sono ritenute illegali, cioè di punto in bianco è illegale detenere armi, quindi le devi consegnare, non ti danno niente, è come una specie di confisca. E se non ho capito male ha detto che serviranno per la causa ucraina, cioè stanno siamo ai cosi quasi di una guerra mondiale, siamo ai cosi di una guerra mondiale, alle soglie di una guerra mondiale, e questo qua canadese va a disarmare i cittadini per dare le armi all'Ucraina, così ho capito. Non so se sia una bufala, però credo che sia vero, ne hanno parlato vari fonti. Così in caso di casini veri, cioè almeno i cittadini americani, sai, se l'esercito un po' prende colpi, gli americani sono quasi tutti armati, possono fare i partigiani, possono sempre intervenire, riuscire a tenere testa, no, a un eventuale invasore, quello che è, no? Invece se ci disarmano un'intera nazione, poi di punto in bianco, capito, da un giorno all'altro, oggi è illegale avere armi, dice, ma io l'ho presa ieri, ho preso il portolano, era tutto legale, e oggi non è più, devi consegnarle allo Stato. E poi lo devono a quanto pare dare gli ucraini, roba da matti. Magari lo faranno in tutte le nazioni, Italia, coso. E così non puoi nemmeno fare reagire e fare il partigiano in caso di casini veri e propri che stanno arrivando, no? Ormai tutto il Medio Oriente è una zona pronta a esplodere. Coso, l'Europa dell'Est è pronta a esplodere. In Romania addirittura hanno destituito, mi pare, il presidente eletto democraticamente, non so chi è intervenuto, l'hanno. Guarda, c'è una cosa dietro, da non dormire la notte, Antonio, da non dormire la notte, le cose che stanno succedendo. Lo stesso le elezioni in Georgia. Ci sono ingerenze negli stati esteri folli, cose mai viste dai tempi, forse della guerra fredda, non saprei. Sì, già lo so, ma l'Australia sai cos'è? Si sta riarmando più che altro l'Australia in caso di guerra, hai capito? Sta comprando armi, hai capito? Si sta nuovo riarmando e sta comprando navi, sta facendo di tutto. Si sta proteggendo, capito? In caso della terza guerra mondiale si vuole proteggere l'Australia. Noi non abbiamo nulla in Italia, lo sa che noi non abbiamo un capo, abbiamo solo roba americana. Se ci muove la Trump, noi ce la prendiamo in culo, come abbiamo fatto nel 1943. Quindi, a un certo punto, siccome non abbiamo un cazzo, abbiamo solamente le basi americane e basta, quindi a un certo punto mi rimaniamo sottomessi con gli americani, dobbiamo fare in pratica quello che vogliono loro. Quindi si stanno tutti riarmando, l'Europa altrettanto si vuole riarmare, quindi in pratica quelle non bastano più il 2% di PIL, ma ce ne vogliono il 9%, perché Trump ha detto di o così o niente, l'ha detto, dice io non ho soldi, non ve ne mando più. Quindi a un certo punto stanno cambiando tutti i corsi, adesso ci sono da una parte i musulmani, dall'altra parte ci abbiamo la Russia, dopo la Russia l'America, tutto lì, hai capito, visto è? Ieri, in tempo di 3 giorni, si è conquistata a cazzo uno Stato, cazzo. Cosa bisogna fare? Guarda lampo, come si dice. Sì, adesso la guerra si fa, spero, in modo diverso, però è una cosa allucinante. In Romania, a quanto ho capito, allora la Romania è membro della NATO, mi pare, dovrebbe già esserlo, ha già installazioni americane, eccetera. E questo presidente eletto dovrebbe essere uno che doveva essere filo putiniano, filo russo, e allora chi di dovere si è messo in mezzo per non so con quale assemblea o cosa farlo destituire, invalidare le elezioni, perché in Romania vogliono fare, Antonio, a quanto ho capito, la più grande base NATO, che sarà ancora più grande della base di Rammstein in Germania, più grande ancora, ed è a un passo dalla Russia. Ci vogliono mettere di tutto, missili intercontinentali, se già non ce li hanno, insomma vogliono mettere di tutto e di più, quindi vogliono fare la più grande NATO, base NATO proprio in Romania, capito? In Georgia lo stesso, casini, non capisco, lì non ho capito bene com'è andata, però sempre ingerenze, cioè gli stati ovviamente americani, sono sempre americani che ci mettono lo zampino, no? La NATO vanno a interferire sulle pubbliche elezioni di uno stato estero, che è una cosa abbastanza grave, no? Vabbè. E sta diventando all'ordine del giorno lì, perché ci sono interessi troppo grandi, confini strategici, paesi anche che si affacciano come la Georgia sul Mar Nero. Sono proprio paesi strategici per la NATO, capito? E perciò c'è una zona bella calda lì in questo periodo. E poi lui ha accennato a Trump. Trump aveva detto tra le varie cose che voleva uscire dalla NATO. E sai cosa vorrebbe dire, Antone? Che se gli Stati Uniti escono dalla NATO, che siamo nella cacca, l'Europa si deve arrangiare in caso di conflitti. E contro la Russia so già come va a finire, eh. E la Russia è una brutta bestia. Si sono armati fino ai denti nel corso di questi anni, forse più anche dei, più ancora degli americani. Quindi, Ui, non ci hanno truppe, non ci hanno le russe, già lo sai. E se no non ci avevo messo i nordcoreani, no, secondo te. A parte quelli, cazzo, quelli della Siria. Adesso la Siria, hai visto come sono fuggiti i russi? Immediatamente. Adesso vedo è che quelli che, di ieri che hanno preso in mano la Siria vanno lì in Russia. Tempo 15, io penso uno o due mesi li buttano giù, cazzo, tutto li buttano giù, a tutti, ce lo buttano giù di subito. Hai capito? Non ci vuole molto, no? Gli aerei ce li hanno, ce li hai visto, ci hanno preso l'interno dall'aeroporto, quindi non ci vuole molto a bombardare la Russia. Tranquillo che li sono cagati sotto adesso i russi, se ne sono fuggiti. Lui ci hanno lasciato stare sono a noi stamattina, perché quando sono arrivati all'ambasciata italiana hanno trovato i carabinieri e gli hanno detto, dice, state tranquilli, a lui non dobbiamo fare niente, gli hanno detto, dice. Noi stiamo cercando, dice, gli amici, dice, in pratica stiamo cercando i italiani. Capito, gli amici di Assad, compresi i russi, quindi hanno pagato i libri, ce ne sono andati veloci, tranquillo che adesso sono cagati sotto, adesso è cambiata la storia lì. Sì, è tutto un caos, Antonè. Guarda, stanno salendo ancora le stazionarie, come piove. 1,5, 1,6, però vabbè, vuol dire che l'antenna è bagnata, ed è per quello, è proprio un grondante d'acqua. E Antonè, in Siria, stessa cosa, cioè lì hai visto, praticamente l'esercito si è ritirato, avranno pagato l'esercito per mollare Assad, che è dovuto scappare in aereo, mi pare che l'aereo è pure caduto, forse è pure morto Assad, non saprei, non ho guardato le ultime notizie. E i cosiddetti ribelli, no, hanno conquistato mezza Siria, forse anche tutta, in due giorni, senza particolare resistenza, così come entrare in un parco giochi. Però sai che gente è questa che questi cosiddetti ribelli, no? Quasi li chiamavano partigiani, è gentaccia dell'ISIS, e gentaccia sono quelli, la stessa gente che ha fatto l'attentato a Charlie Hebdo, che al teatro Bataclan, Torri Gemelle, tutta quella gentaccia lì, e quindi questi che stanno liberando la Siria dal dittatore, sono peggio del dittatore, è tutta la stessa gentaccia, capito? Jihad, di tutto e di più c'è, di tutto e di più. Quindi fanno un califfato, adesso fanno e poi si vedrà, capito? Poi già si metteranno d'accordo russi e americani come facevano prima, non ti preoccupare, li buttano lì fuori, non ci vuole molto, no? Si dividono le cose in due. Adesso hai visto come vogliono fare con l'Ucraina? Se invidono l'Ucraina, la Francia, la Gran Bretagna, a noi non ci danno un cazzo da fare perché a noi non ci hanno proprio niente, e gli americani se la invidono in tre. E la Russia fanno una specie di coso cuscinetto, fanno come fa la Germania Est con la Germania Ovest, e la Russia si piglia il Donbass e quello che vorrebbero lì. E loro stanno a posto. che c'è la nuvolato muro di Berlino, poi andremo in luogo d'accordo, discorso è quello, finirà così, finirà. Se non succede più niente, non ti preoccupare. Con Trump. Capito? Tanto di soldi li abbiamo dati tutti la comunità europea. Adesso la comunità europea si attacca al cazzo, si attacca perché non prende un cazzo. Che si penalo, ma sono i francesi, la Gran Bretagna, gli americani. Noi non c'entriamo un cazzo, e capitano non c'era fatto niente da costruire. Cos'è quello? Poi dall'altra parte costruirono i russi, i Donbass, la Crimea, eccetera, eccetera. Come stavano facendo? E magari ci sarà anche il Pechino, cosa ne so, i cinesi come costruiscono i ponti, che c'è un tempo di... Se usare il ponte dello stretto di Messina, te lo fanno in tempo di un anno nemmeno. Ma te lo fanno bene però, non te lo fanno dalla cazzo di cane come vogliono fare in Italia. E sai cos'è la Cina? È un paese enorme, cioè la Cina produce quasi tutto quello che esiste al mondo. La Cina si sta comprando tutto il reparto automobilistico, l'industria almeno italiana, cioè quando fallisce un marchio italiano chi se lo compra? La Cina. Tutto il reparto tessile, tutto, la Cina si è comprata tutti i marchi italiani, quasi non dico tutti, ma quando un marchio italiano va male rischia di fallire, chi è che se lo prende? La Cina, lo rileva la Cina. Non produciamo più niente, cosa produciamo? Lasciamo perdere, non fare parlare cacca, produciamo noi, capito? E quelle marche storiche, cose, Lane Rossi, che ne so, tutto quello, il reparto tessile, tutto sparito, tutto male sta andando. L'industria automobilistica sta andando male, la Volkswagen che ormai se continua così chiude entro un anno o due. Una crisi mai vista anche nel reparto automobilistico. Poi la Stellantis, questo gruppo che ha tutte queste marche, sta facendo porcherie su porcherie. Vabbè. Sì, le macchine elettriche, belle sono, cazzo. Le compri, dopo 6 mesi prendono fuoco. Sono un po' più a rischio. Non lo so, poi da noi non va, cioè c'hai due colonnine in croce, io già me ne frega se c'hai due colonnine a Piazza dei Segni, due colonnine a Cosa, adesso non mi viene il nome lì, non fa. Io mi chiedo, dopo il 2035, avevano detto che volevano fare solo elettrico, non so, vorrebbero arrivare a quel livello là, no, di produrre solo macchine elettriche, quindi è meglio accaparrarsi auto a benzina e a gasolio finché le trovi. Non so, un pasticcio, a me sembra un pasticcio. Poi stanno arrivando queste macchine cinesi di qualità, certe volte anche un po' ambigua, anche a motore, a benzina, però meglio a benzina che non, o a gasolio che non elettriche. Qualità costruttive anche certe volte terra a terra, tutto plastica, scricchiolante, che tu che anche sai certe Mercedes di adesso, i tocchi cruscotto, tutto scricchiolante, tocchi tutte le plastiche delle portiere, tutto scricchiola, sembrano plastiche giocattolose, non è più la roba bella stabile di una volta, che non sentivi uno scricchiolio in quelle macchine. E vabbè. Ma è così, le vogliono così, non tocca a noi farle. Capito? Purtroppo è il mezzo punto. E non ci possiamo fare un cazzo, la verità. Quindi figurati. Come fuori, si sta un po' calmando, perché prima sentivo rumore, come trasmettevi, sentivo una specie di cish, ma cos'era, grandine ancora o pioggia? Era grandine prima, adesso non sta più facendo niente, non c'è manco vento, figurati tu. Eia. Vabbè, campo di schifo, altro che andare fuori, vabbè. Antone, io quasi quasi devo stendere la roba della lavatrice, devo staccare. E poi, vabbè, faccio altro, faccio il caffè, quindi per adesso stacco. Non credo che rientrerò dopo, quindi ritieniti super salutato. Va bene, ci sentiamo, dai, sto in bene. Buco di tipo in tutto al limite. Ci sentiamo domani se non entro stasera. Andrà bene, vera. A domani, ciao. Ciao Antone, comunque mi, come ha detto l'altro giorno, se vuoi andare a combattere contro Putin, ci mettiamo lo scolapasta in testa, il maestro in mano, io porto il vino e tu porti salsiccia e formaggio e partiamo. Facciamo così, facciamo. A tutto deve stare ormai mi. Stanno già facendo gli arruolamenti del servizio per andare a fare militare, quindi preparati che tu c'hai ancora l'età giusta. Io ho 60 anni, non penso che mi chiami da me. Se vado, vado con la forchetta io, con forchettone, quello del fiero. Ehi, poi in certi stati stavano, tipo Svezia, non so, le donne, stavano chiamando le donne per istruirle in pratiche militari, tecniche militari, anche, non lo so, è tutto strano, tutto male sta andando, dove ti dica. Stanno facendo discorsi che le aziende europee si devono preparare a un'economia di guerra, alle aziende. Se proprio, te l'ho detto, la pace non la vuole nessuno, da nessuna parte del mondo. Noi facciamo come si faceva in quel film, adesso non mi ricordo come cavolo si chiama. In pratica buttiamo vino, whisky, birra, hai capito? Come regalo, fate centrale, facciamo un'offerta, non vogliamo combattere, io a festeggiare, li becchiamo tutti e poi li ammazziamo. Nabu, non so che film fosse. Bene, Antone, di nuovo saluti, dai, sentiamo quando capita. D'accordo, d'accordo, non c'è problema. Sentiamo domani al limite. Ciao, buonanotte.